I bdud che possiedono concretezza sono molto numerosi, ma quando davanti agli organi dei sensi appaiono le visioni, si esamina ciò che si preferisce e che si rifiuta. Allora, i bdud che possiedono concretezza, se si cerca di afferrare ciò che si crede reale, ti legano al samsara, il ciclo delle rinascite. Essendo la forma vacua, per la natura stessa delle forme, non si provi attaccamento per essa, ma si mediti sulla vacuità. Se realmente non si prova attaccamento verso le forme, si è liberati dal bdud, che fa credere nell'esistenza eterna. Se nella propria mente non si concettualizza la vacuità, si è sicuramente liberati dal bdud dell'annientamento. La percezione dei fenomeni non può essere impedita. Ma se essa non viene considerata concreta, la propria visione si manifesta come luce. In questo modo ci si libera dai suoni, dagli odori, le sensazioni tattili e la mente. La mente stessa è il Bdud che non possiede concretezza. Se invece sorge attraverso le porte dei cinque sensi viene insegnato che è il Bdud che possiede concretezza. Le visioni appaiono agli organi dei sensi, ma nello stato dell'autoliberazione si interrompono istantaneamente e vengono trasformate nell'inseparabile grande oscurità. Il modo in cui si manifestano i bdud che non possiedono concretezza, quando nella propria mente sorge il pensiero di un oggetto, il bene e il male si vengono a separare attraverso il processo mentale. Viene dimostrato che ciò è il bdud che non possiede concretezza, attaccandosi al concetto di divinità benevole e a quello di spiriti malefici al di là della mente spontanea, a causa dell'oscillare di speranza e sfiducia, il proprio Bdud si manifesta in se stessi. Dal chiaro e immenso spazio della Dharmata, la legge naturale, sorgono in tutte le direzioni i pensieri e i ricordi, così come nell'oceano immutabile sorgono le onde e le increspature. Chiunque abbia questa comprensione non necessita di artifici, rimanga naturalmente nella propria condizione. Ci si libera nello spazio in cui non nasce né beneficio né danno. Dallo spazio della Dharmata, la legge naturale spontaneamente sorge. Non è corretto nutrire gelosia e sentimento di preferenza o di rifiuto. Se non si provano preferenza e rifiuto, si manifesta la mente spontanea.